Ondivago, un programma ideato e condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com. Ondivago vi propone secondo estratto dall'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. La lettura è di Alessandra Terni. Ma delirano ormai, non ragionano più, certo. È proprio questo che significa tornare fanciulli. Forse che essere fanciulli non significa delirare e non avere senno? E non è proprio questo, il non aver senno, che più piace di quella età? Chi non vivrebbe come mostro un bambino con la saggezza di un uomo? Lo conferma il diffuso proverbio «Odio il bambino di precoce saggezza». E chi d'altra parte vorrebbe rapporti e legami di familiarità con un vecchio che ha la lunga esperienza di vita unisse pari forza d'animo e acutezza di giudizio? Così, per mio dono, il vecchio delira. E tuttavia questo mio vecchio delirante è libero dagli affanni che travagliano il saggio. Quando si tratta di bere è un allegro compagno, non avverte il tedio della vita che l'età più vigorosa sopporta a fatica. Talvolta, come il vecchio di Plauto, torna alle tre famose lettere. Amo. Che se fosse in senno ne sarebbe infelicissimo. Invece, per merito mio, è felice. Simpatico agli amici, piacevole in compagnia. Del resto, anche in Omero, il discorso scorre dalla bocca di Nestore, più dolce del miele. Mentre amare sono le parole di Achille. E sempre in Omero, i vecchi che se ne stanno seduti insieme sulle mura parlano con voce soave. In questo senso sono superiori alla stessa infanzia, che è sì deliziosa, ma non parla e priva della parola manca del principale diletto della vita, che è quello di una schietta conversazione. Aggiungi che ai vecchi piacciono moltissimo i bambini e altrettanto ai bambini i vecchi, perché il Dio spinge sempre il simile verso il simile. In che differiscono, infatti, se non nelle rughe, negli anni che nel vecchio sono di più? Per il resto, capelli sbiaditi, bocca sdentata, corporatura ridotta, desiderio di latte, balbuzie, garrulità, mancanza di senno, smemoratezza, irriflessione. In breve, sotto ogni altro aspetto si accordano. Quanto più invecchiano, tanto più somigliano ai bambini, finché, come bambini, senza il tedio della vita, senza il senso della morte, abbandonano la vita. Paragoni, ora chi vuole, questo mio beneficio con le metamorfosi operate dagli altri dei. E non sto a ricordare quello che fanno quando li possiede l'ira. Parlo di coloro che godono di tutta la loro benevolenza. Li trasformano di solito in alberi, uccelli, cicale e perfino in serpenti, come se il diventare altro non fosse proprio un morire. Io, invece, restituisco il medesimo uomo al periodo migliore della vita, al più felice. Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza e vivessero sempre sotto la mia insegna, la vecchiaia neppure ci sarebbe e godrebbero, felici, di un'eterna giovinezza. Non vi accorgete che gli uomini austeri, dediti a studi filosofici o impegnati in faccende serie e difficili, in genere sono già vecchi prima di essere stati davvero giovani? E questo per le preoccupazioni e per il costante e teso dibattito mentale che un po' alla volta esaurisce gli spiriti e la linfa vitale. Al contrario, i miei bei matti sono tutti grassottelli, lustri, senza una ruga, proprio come quelli che chiamano porcelli da Carnania, immuni per certo da qualunque disturbo senile, a meno che non si trovino a subire in qualche misura il contagio dei saggi, come capita, poiché la vita non consente mai una completa felicità. Valida testimonianza di tutto questo è il diffuso proverbio secondo cui solo la follia è capace di prolungare la giovinezza, altrimenti fuggevolissima, e di tenere lontana la nostra vecchiaia. Sicché, non a torto, si è fatto l'elogio del detto popolare del Brabante. Mentre altrove di solito l'età porta saggezza, qui più si invecchia e più matti si diventa. Non c'è popolazione, infatti, più incline di questa a un giocondo abito di vita e meno portata ad avvertire la tristezza della vecchiaia. Loro vicini, e dal punto di vista geografico e da quello del costume, sono i miei olandesi, E perché poi non dovrei chiamarli miei, se mi sono così devoti da essersi meritato un soprannome di folli di cui non si vergognano per nulla, che anzi ne traggono il loro vanto principale? È tempo ormai di seguire l'esempio di Omero, lasciando da parte gli dèi, e tornare sulla terra per vedere fino a qual punto gioia e fortuna vi si trovino solo per mio dono. In primo luogo osservate con quanta previdenza la natura, madre ed artefice del genere umano, ebbe cura di spargere dappertutto un pizzico di follia. Se infatti, secondo la definizione stoica, la saggezza consiste solo nel farsi guidare dalla ragione, mentre al contrario la follia consiste nel farsi trascinare dalle passioni, perché la vita umana non fosse del tutto improntata a malinconica severità, Giove infuse nell'uomo molta più passione che ragione, pressa poco nella proporzione di mezz'oncia ad un asse. Relegò inoltre la ragione in un angolino della testa, lasciando il resto del corpo ai turbamenti delle passioni. Quindi, alla sola ragione, contrappose due specie di violentissimi tiranni: l'ira, che occupa la rocca del petto, e il cuore stesso, che è la fonte della vita, e la concupiscenza, che estende il suo dominio fino al basso ventre. Quanto valga la ragione contro queste due agguerrite avversarie, ce lo dice a sufficienza la condotta abituale degli uomini. La ragione può solo protestare, e lo fa fino a perderci la voce, enunciando i principi morali, ma quelle, rivoltandosi alla loro regina, la subissano di grida odiose finché lei, prostrata, cede spontaneamente, dichiarandosi vinta. Tuttavia, poiché l'uomo, nato per far fronte agli affari, doveva ricevere in dote un po' più di un'oncia di ragione, Giove, per provvedere debitamente, mi convocò perché lo consigliassi, come su tutto il resto, anche a questo proposito. E il mio pronto consiglio fu degno di me: affiancare all'uomo la donna. Animale, sì, stolto e sciocco, ma deliziosamente spassoso, che nella convivenza addolcisce con un pizzico di follia la malinconica gravità del temperamento maschile. Platone, infatti, quando sembra in dubbio circa la collocazione della donna, se fra gli animali razionali o fra i bruti, vuole solo sottolineare la straordinaria follia di questo sesso. E se per caso una donna vuole passare per saggia, ottiene solo di essere due volte folle, come se uno volesse, contro ogni ragionevole proposito, portare un bue in palestra. Infatti, raddoppia il suo difetto chi, distorcendo la propria natura, assume sembianza virtuosa. Come secondo il proverbio greco, la scimmia è sempre una scimmia, anche se si ammanta di porpora. Così la donna è sempre una donna, cioè folle, comunque si mascheri. Non però così folle, voglio credere, da prendersela con me perché la giudico folle, io che sono folle, anzi la follia in persona. Le donne, infatti, se ponderassero bene la questione, anche questo dovrebbero considerare come un dono della follia. Il fatto di essere, sotto molti aspetti, più fortunate degli uomini. In primo luogo hanno il dono della bellezza, che giustamente mettono al di sopra di tutto, contando su di essa per tiranneggiare gli stessi tiranni. Quanto all'uomo, di dove gli viene l'aspetto rude, la pelle ruvida, la barba folta e un certo che di senile, se non dalla maledizione del senno? Le donne, invece, con le guance sempre lisce, con la voce sempre sottile, con la pelle morbida, danno quasi l'impressione di un'eterna giovinezza. Ma che altro desiderano poi in questa vita, se non piacere agli uomini quanto più è possibile? Non mirano forse a questo? Tante cure, belletti, bagni, acconciature, unguenti, profumi, tante arti volte ad abbellire, dipingere, truccare il volto, gli occhi, la pelle. C'è forse qualche altro motivo che le faccia apprezzare dagli uomini più della follia? Che cosa mai non concedono gli uomini alle donne? Ma in cambio di che, se non del piacere? E il diletto da nient'altro viene se non dalla loro follia. Che questo sia vero non si può negare, solo che si pensi a tutte le sciocchezze che un uomo dice quando parla con una donna, a tutte le stupidaggini che fa ogni volta che si mette in testa di ottenerne i favori. Ecco da che fonte sgorga il primo e principale diletto della vita. Alessandra Terni legge l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. ondivago.com. Ma ci sono uomini, specialmente tra i vecchi, che alla donna preferiscono il bere. Per loro il sommo piacere sta nei simposi. Altri pensano che possa esservi un lauto banchetto senza donne. Però una cosa è certa, che senza un pizzico di follia non può esservi un banchetto ben riuscito. A tal punto che se non c'è già qualcuno capace di fare ridere con la sua follia autentica o simulata, si chiama un buffone a pagamento o un allegro parassita che con le sue comiche, ossia folli battute, dissipi il silenzio e la noia del simposio. A che scopo, infatti, riempirsi il ventre di tanti dolciumi, leccorni e ghiottonerie, se anche gli occhi, le orecchie e l'anima intera non si nutrissero di risa, di scherzi, di facezie? Ma cibi del genere posso ammannirli solo io. D'altra parte, anche quei riti conviviali, come sorteggiare il re del convito, giocare ai dadi, invitare al brindisi, gareggiare intorno ad un tavolo a cantare e bere a turno, passarsi il mirto cantando, ballare, far pantomime, non sono stati inventati dai sette sapienti della Grecia, ma da me per la felicità dell'umana specie. Tutte le cose di questo genere hanno un tratto comune, che quanto più partecipano della follia, tanto più rallegrano la vita dei mortali, che se fosse triste neanche meriterebbe di essere chiamata vita. E triste risulterà senz'altro se non le toglierai di dosso l'innato tedio con questo tipo di divertimenti. Forse taluni trascureranno anche questo genere di piacere e saranno paghi dell'amore e della familiarità degli amici, affermando che l'amicizia vale più di tutto. L'amicizia, un bene non meno necessario dell'aria, del fuoco, dell'acqua, tanto soave che se togli l'amicizia togli il sole. Infine, tanto nobile, ammesso che la cosa ci riguardi, che gli stessi filosofi non esitano a ricordarla fra i beni fondamentali. Ma che succede se dimostro che anche di questo bene così grande sono io, la poppa e la prora? Io lo dimostrerò non col sofisma del coccodrillo, non coi soliti cornuti o con altre simili dialettiche sottigliezze, ma alla buona, facendovi toccare la cosa con mano. Orbene, chiudere gli occhi, ingannarsi, essere ciechi, illudersi a proposito dei difetti degli amici, amarne, apprezzarne come qualità alcuni dei vizi più evidenti, non è forse qualcosa di molto vicino alla follia? C'è chi bacia il neo dell'amica, chi trova incantevole il polipo di Agna. Il padre dice del figlio strabico che ha il vezzo di ammiccare. Tutto questo io domando che è se non pura follia? Ripetano a gran voce che è follia, eppure essa sola è capace di promuovere e cementare le amicizie. Parlo dei comuni mortali, nessuno dei quali nasce senza difetti. Il migliore è chi ne ha meno. Quanto poi a quei famosi saggi che hanno il piglio di dei, tra loro l'amicizia o non nasce affatto, o è qualcosa di cupo e scostante, limitata poi a pochissimi. Non oso dire che non include proprio nessuno. Perché la maggior parte degli uomini ha un pizzico di follia. Anzi, non c'è nessuno che in un modo o in un altro non abbia le sue stranezze. E non c'è amicizia se non tra persone simili. Se infatti tra questi uomini austeri si desse una volta uno scambievole affetto, non sarebbe per nulla stabile e durerebbe ben poco, nascendo tra uomini difficili e più oculati del necessario, capaci di cogliere i difetti degli amici con l'occhio acuto dell'aquila e del serpente di Epidauro. Quando però si tratta dei loro difetti, come ci vedono poco e come ignorano la parte della bisaccia che portano dietro alle spalle. Quanto si è detto dell'amicizia, a maggior ragione vale per il matrimonio, che altro non è se non un legame per la vita tra singoli individui. Dio è immortale. Quanti divorzi, o fatti anche peggiori dei divorzi, non si avrebbero dappertutto se la domestica convivenza del marito con la moglie non si rafforzasse nutrendosi di adulazioni, di scherzi, di indulgenza, di errori, di dissimulazioni, tutte cose che appartengono al mio seguito. Quanti matrimoni ci sarebbero se il fidanzato saggiamente si informasse dei passatempi a cui già molto prima delle nozze si dedicava la sua verginella, così delicata e pudica in apparenza. E a celebrazione avvenuta, quanti ne durerebbero se tante imprese delle mogli non rimanessero ignorate per la negligenza e la sciocchezza dei mariti. E anche questo, a buon diritto, è da attribuirsi alla follia, a cui si deve se il marito ama la moglie e la moglie il marito, se in casa regna la pace, se il vincolo dura. Si ride del cornuto, del cervo e quanti altri nomi non gli si danno quando asciuga con i baci le lacrime dell'adultera. Ma quanto meglio lasciarsi ingannare così che rodersi di gelosia e volgere tutto in tragedia. Insomma, senza di me nessuna società, nessun legame potrebbe durare felicemente. Il popolo si stancherebbe del principe, il servo del padrone, la serva della padrona, il maestro dello scolaro, l'amico dell'amico, la moglie del marito, il locatore del locatario, il compagno del compagno, l'ospite dell'ospite, se a volta non si ingannassero a vicenda, ora adulandosi, ora facendo saggiamente finta di non vedere, ora lusingandosi col miele della follia. So che queste vi sembrano enormità, ma ne sentirete di più belle. Di grazia, chi odia se stesso come potrà amare qualcuno? Chi è interiormente combattuto potrà forse andare d'accordo con altri? Potrà chi è sgradito e molesto a se stesso riuscire gradevole a un altro? Nessuno, credo, lo affermerebbe se non fosse un pazzo più pazzo della follia stessa. Pertanto, se non ci fossi più io, lungi dal sopportare il prossimo, ognuno in viso a se stesso proverebbe disgusto di sé e delle sue cose. La natura, infatti, in molte cose matrigna piuttosto che madre, ha posto nell'animo dei mortali, soprattutto se appena più intelligenti, il seme di questo male, scontento di sé e ammirazione per gli altri. Di qui il venire meno e l'estinguersi di tutte quelle squisite doti che sono il profumo della vita. A che giova, infatti, la bellezza, il massimo dono degli dèi immortali, se deve essere lasciata sfiorire? A che la giovinezza, se deve intristire per il veleno di senili malinconie? Infine, in tutti i casi della vita, come potrai agire in modo conveniente nei tuoi o negli altrui confronti? Agire come conviene non è solo la prima regola dell'arte, ma di tutta la nostra condotta. Se non ti sarà propizia Filautia, che a buon diritto tengo in conto di sorella, tanto validamente mi presta il suo aiuto in ogni occasione. Se piace a te stesso, se ti ammiri, questo è proprio il colmo della follia. Ma d'altra parte, dispiacendo a te stesso, che cosa potresti fare di bello, di gradevole, di nobile? Togli alla vita l'amor proprio e subito la parola suonerà fredda sulle labbra dell'oratore. Il musicista non piacerà a nessuno con le sue melodie. L'attore si farà fischiare con la sua mimica. Il poeta e le sue muse saranno irrisi, sarà tenuto a vile il pittore con la sua arte. Si ridurrà alla fame il medico con le sue medicine. Alla fine, invece di Nireo, sembrerai Tersite, invece di Faone Nestore, invece di Minerva una scrofa, invece di un forbito oratore, uno che non balbetta neanche una parola, invece di un distinto cittadino o un rozzo contadino. Se vuoi poter essere raccomandato agli altri, devi proprio cominciare col raccomandarti a te stesso. Devi essere il primo a lodarti e non senza una punta di adulazione. Infine, poiché la felicità consiste soprattutto nel voler essere ciò che si è, qui interviene col suo aiuto la mia Filautia, facendo in modo che nessuno sia scontento del proprio aspetto, carattere, schiatta, posizione, educazione, patria. Tanto che né un irlandese si cambierebbe con un italiano, né un tracio con un ateniese, né un'uscita con un abitante delle isole fortunate. Oh singolare bontà della natura, che in tanta varietà di cose stabilì un regime di uguaglianza. Dove scarseggia coi suoi doni, là è solita aggiungere una dose maggiore di amor proprio. Ma che sciocchezza, ho detto. Proprio questo. È il più grande dei suoi doni. Ondivago vi ha proposto il secondo estratto dall'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Il progetto Ondivox è così iniziato con la voce dell'attrice Alessandra Terni. Altri attori e interpreti saranno presenti nel nostro programma per leggere pagine scelte dai classici della letteratura. Un piacere e una opportunità d'ascolto che offre Ondivago. I miei più folli saluti, Max Ponte. Ondivago.com